Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Is he backing the wrong horse here? Well, I think he is, but he is honest enough to say that there is something wrong. Bernie Sanders, Bernie Sanders ovviamente ha fatto notizia perché è andato a Roma, ha fatto una visita in Vaticano, ha partecipato a un convegno su temi in cui Vaticano e Sanders si trovano in sintonia, cioè la necessità di ristabilire un certo equilibrio nella distribuzione del reddito, ma soprattutto alla fine ha incontrato davvero il Papa. E beh, devo dire, è stato un incontro per lui molto importante, una semplice stretta di mano, uno scambio di convenevoli. E rientrando in città, New York, dove domani ci saranno le primarie sia democratiche che repubblicane, si è subito gettato nella mischia, attaccando soprattutto l'attore Clooney, che secondo Sanders sta sostenendo il cavallo sbagliato. Che è successo? Che Hillary Clinton è andata a Los Angeles, c'è stata una cena nella villa meravigliosa di Clooney e della moglie Amal, ed era una cena per raccogliere fondi. Costo di un biglietto $33,400, però c'è stato anche chi ha pagato $353,000 per essere seduto al tavolo con l'attore e con la candidata, con Hillary Clinton. E quindi in un tavolo di quel genere, sanno 10-12 persone, immaginate che cosa ha raccolto soltanto da quel tavolo. Polemiche, al punto che lo stesso Clooney è intervenuto nel dibattito. Sentiamolo. Well, I've worked with Secretary Clinton as a secretary, particularly in... dice, sono delle cifre oscene e i dimostranti hanno ragione. È una cifra oscena quella che dobbiamo spendere per elezioni. È ridicolo che si spendano tutti questi soldi in politica, eppure poi lui stesso è partecipe di questa operazione dalla quale ormai non si torna indietro. Ecco, la cosa importante su New York, che erano decenni che New York non si trovava al centro di una battaglia politica di questo genere, sia per i democratici che per i repubblicani. Comunque vediamo dove siamo. Hillary Clinton è in vantaggio 53,5% contro il 41% di Sanders. Sanders che rivendica di essere solo lui il vero newyorkese. In campo repubblicano ovviamente è Donald Trump che rivendica di essere il vero newyorkese, contro Cruz e contro Kasich. Trump è comunque in ampio vantaggio, 52,2% dei sondaggi a suo favore, Kasich attorno al 23,2%, Cruz attorno al 17,8%. Posizione delegati, la Clinton ha 1249 delegati, dunque escludendo i super delegati, Sanders ne ha 1045. Come vedete, la distanza sulla base dei delegati, semplicemente dei delegati, è abbastanza ravvicinata. In campo repubblicano, Trump 755 delegati, Cruz 559, insomma la distanza è vicina. Kasich ne ha 144, dunque non andrà da nessuna parte. Ma in questa battaglia quel che succederà è che arriveremo quasi certamente alla convention senza che nessuno dei candidati abbia una vera maggioranza. E allora sì che ne vedremo delle belle. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ecco, trailer di Perfetti Sconosciuti, l'unico italiano in gara al Tribeca Film Festival. Devo dire, è una situazione di grande festa a New York, quando c'è questo festival che era nato così, su ispirazione di Bob De Niro, subito dopo l'attacco dell'11 settembre, per restituire vigore a Tribeca, il quartiere a sud di New York, vicino alle due torri, che era entrato in profonda depressione dopo l'attacco. Ci sono complessivamente 101 film in concorso, 72 cortometraggi, le proiezioni avvengono un po' dappertutto, a Tribeca, Chelsea, Battery Park, Midtown, dunque ne parleremo ancora nel corso della settimana. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, New York è copertina e dunque non possiamo che andare con un classico, New York, New York, nella versione questa volta di Lady Gaga. Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it,